speranza sarà l'ultima che morirà. Peccato che purtroppo questa non ti servirà. E se non usi le tue forze che sentendo se ne accorge, di spari nella luce non ti aiuterà. More, more, more, give me more, more, more marijuana, more, more, more, give me more, more, more. Ganja na mi brain, ganja na mi brain, more marijuana voglio dentro il mio sistema. Ganja na mi brain, ganja na mi brain, bondi ganja blanda mattina sera. Ganja na mi brain, ganja na mi brain, more marijuana voglio dentro il mio sistema. Cancella mi brina, cancella mi brina. Ai Maria, se tu manchi sai che pena. Fumala ed avrai pensieri buoni. Credo la fumasse pure Peter Pan per fare i suoi voli. Staremo più tranquilli se fumassero due poli. Gancia nella testa di Bersani e Berlusconi. Ognuno con la bella serra dentro l'orticello. In casa con la luce nell'armadio nel tinello. C'è già chi lo fa, ma il problema non è quello. Deve essere legale ancora, lancio questa. E mani dappertutto, manco il peggio criminale. Basta con gli spacciatori sempre da inseguire. Basta le soffiate delle spie col cannocchiale. Ognuno c'è se gusti in casa sarebbe perfetto. Erba, fumo, olio, quantità e pure l'effetto. Decisi dal consumatore il tutto più diretto. Da terra alla testa sotto il medesimo tetto. Cancella mi brain, cancella mi brain. More marijuana voglio dentro il mio sistema. Cancella mi brain, cancella mi brain. Ganja blanda mattina sera. Cancella mi brena, cancella mi brena. More marijuana voglio dentro il mio sistema. Cancella mi brena, cancella mi brena. Ai Maria, se tu manchi sai che pena. Fumiamo dei grandissimi cannoni, noni, noni. Con cimoni, moni, moni, davvero buoni, buoni, buoni. Non resisioni, noni, noni. E basta così, sai perché? Peggio la tua canna in tasca che la coca di Michigan. La bianca di Colombia non la voglio lascia stare. Ho la carta argentata e bottiglia da fumare. Le piste che mi piacciono non sono da tirare, ma sono quelle dove vedo rossi scorrazzare. Le pere no, non fanno schifo, mi abbastanza. E le pasticche me le prendo se c'ho l'influenza. Le metto belle a posto tutte dentro la credenza, assieme alla Maria di qui non posso fare senza. Cancella mi brena, cancella mi brena. More marijuana voglio dentro il mio sistema. Cancella mi brena, cancella mi brena. Bondi ganja blanda mattina sera, cancella mi brena, cancella mi brena, more marijuana voglio dentro il mio sistema, cancella mi brena, cancella mi brena, ai Maria se tu manchi sai che pena, more, more, more, give me more.